siamo parlati di nascosto, ma sembrava molto di più. Ci siamo nascosti in quel posto, ma sembrava molto di più. Ma è stata un'illusione ottica, una canzone malinconica, ma è stata una risposta etica, una prescrizione medica. Ma poi sono scomparso, ma poi sei scomparso, ma poi siamo implosi e adesso siamo soli. Ma poi sono scomparso, ma poi sei scomparso, ma poi siamo implosi e adesso siamo soli. Non siamo mai stati uniti, e lei non mi merita. Non siamo mai mai partiti, mai, per l'America. Ma era una battuta comica, una costruzione poco solida. C'è stata troppa filosofia, troppo poca autoironia. Allora sono scomparso, e allora sei scomparso, e quindi siamo implosi, e adesso siamo soli. E allora sono scomparso, e allora sei scomparsa, e quindi siamo implosi, e adesso siamo soli, soli, siamo soli, siamo soli, siamo soli.